face. It's the Lord who expects you. Tutta la mia gente ancora con le mani in aria, occhi verso il cielo con il grido di battaglia. Tutto ciò che vedi e tutto ciò che tocchi è quello che ricevi, è quello che ti fotti. Quello che vorresti è sempre quello che puoi avere. Nulla ti è vietato se lo fai col tuo potere. Tutto ciò che ti sfido poi ricostruisci. Tutte le emozioni belle, tutte quelle tristi. A 12 anni il primo CD diverso, l'hip hop mi ha contagiato e dentro lui mi sono perso. Crescevo completando malapena qualche rima, mentre i bro faceva bombing sopra qualche palazzina. Vedevo gem ovunque e pensavo quanto sia bello rimare senza sosta fino al primo ritornello. Compravo ancora CD documentando quest'arte. La voglia di spiccare prese tutto il mio cervello. La scena era underground, la low fame sul palco. Non c'era ancora merda, non c'era mondo marcio. Si giudicavano i venduti come dei perdenti e adesso vendi la madre per un 20. Complimenti. Parlano di ghetto e della loro vita male, ma l'unica mignotta che conoscono è la loro madre. Fanno i papponi con la lingua e senza ferri, che poi non sa neanche come tagliano i coltelli. Cerotti sotto gli occhi stanno male pure Anelli. Qui l'apparenza esplode sopra i vostri gioielli. L'hip hop viene da dentro e vive dentro l'esperienza. È fatto di ricordi, fotta flow e competenza. L'hip hop che fate voi porta solo alla sonnolenza. Non cresce assieme a voi perché è già morto in partenza. Coreografi, discografi che improntano lo stile, e voi fate il balletto vestiti da ballerine. Che stile. Non ho mai smesso di apprezzare i 90, gli anni di trionfo di una musica scomparsa. Giro sul campione l'emozione che mi scassa. Non fotto con la tua opinione, neanche con la massa. Lo faccio per me stesso e per lo stile che acquisisco. Rimango l'unico b-boy anche se vado in disco. Finisco un lavoro che voi non avete chiuso e rimango nel mio mondo anche se tu mi vedi illuso. Tutta la mia gente ancora con le mani in aria, occhi verso il cielo con il grido di battaglia. Tutto ciò che vedi e tutto ciò che tocchi è quello che ricevi, è quello che ti fotti. Quello che vorresti è sempre quello che puoi avere. Nulla ti è vietato se lo fai col tuo potere. Tutto ciò che ti sfido poi ricostruisci. Tutte le emozioni belle pure quelle tristi.